Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Allora, siamo alla fermata dell'autobus. Sì. Ok. Adesso i giovani stanno sempre al cellulare. No, va bene. Dice Carlo, sì. 75 anni, nonno di Edoardo. Certo, che sarà sfatto di Emilio Fede su Rete 4 per una vita davanti, sì, alla, esatto, televisione. Sì, ma ai miei tempi era diverso. Cioè? Si giocava in cortile, dice Carlo. Con le bombe. Ai suoi tempi, bravissimo, c'erano le bombe, gli risponde Gianni, 35 anni, laureato in storia. Certo, perché si ricorda delle BR. Non ci sono più le stragi di una volta. Risponde Carlo, con un po' di rammarico, peraltro inutile e non si comprende immotivato. Perché. Esatto. Ai miei tempi c'era la guerra, rilancia Emilia. Una signora sui 65, no, sui 75 anni vuole mettere la guerra con le sue stragi da 2 lire. Certo. Noi mangiavamo le bucce delle patate. Certo. In che modo dovrebbe essere meglio quello che lei sta dicendo? Interviene Edoardo, giustamente il nipotino, un po' distratto dal suo cellulare. Esatto. Certo. E poi la prima guerra mondiale, quella vera, l'ho vissuta io. Tuona una voce che sembra arrivare dal passato. La prima, anni, non questo. La seconda. Certo. Ma era una guerra facile, gli risponde un altro. Vuoi mettere la peste? Era un'amichevole, cos'era? La peste. E il diluvio universale? Tuona un'altra voce. Il diluvio universale? Ammesso che sia mai esistito. Non è niente, risponde uno scheletro di dinosauro direttamente dal museo del palazzo di fronte. Vuoi mettere con la pioggia di meteoriti? Questo è un po', ha fatto tipo una catena di Sant'Antonio, volevo arrivare a Sant'Antonio ma sono quello superato. E avanti così fino al Big Bang, a un certo punto ho pensato che arrivassi fino al Big Bang. Tuona il Big Bang. Che bei tempi quando c'era il Big Bang. Quando c'ero solo io, tra l'altro. Quando non c'era nessuno, era bellissimo. I buchi neri. Perché il luogo comune di oggi, giustamente come ci ha fatto capire quest'ottima interpretazione del maestro Beppe Salmetti, è che, ma ai miei tempi, che un po' anche, c'è sempre qualcuno di più puro che ti è pura, cioè c'è sempre qualcuno che ne sa più di te. C'è sempre un modo per cui uno mette una bandierina sulla propria generazione e dice: la mia generazione è meglio della tua o della vostra o di quella degli altri, quelle più giovani o quelle più vecchie. Non so perché c'è questa appropriazione indebita di ogni epoca. Voi la fate, ad esempio? Assolutamente no. Per me esiste l'adesso, come si dice in latino, hic et nunc, cioè adesso, qui ed ora. A me va benissimo così, cioè sto bene dove sto. A me verrebbe quasi da augurare chi dice ai miei tempi: tornaci. No, no, nel senso che tu sei. Bravo. Ma guarda, che se tornaci. Ti piaceva così tanto, ti prova, prego, a vivere come vivevi prima. Io vorrei tantissimo che ci fosse una macchina del tempo. Anche per certe persone che, come dire, sono un po' nostalgiche di certe cose che non ho voglia di menzionare, certo, in questo, chiaro, programma. Certo. Di rispedirli. Io vorrei veramente avere tantissimo una macchina del tempo e spedirli indietro. Ritorno al futuro. Così almeno sono felicissimi di vivere in quell'epoca. Ah, e noi siamo felicissimi di vivere in questa. Però stavo pensando quando. No, mi piace molto come idea, soprattutto per alcune categorie. Un bellissimo soggetto per un film. Ma vacci nel 1942. Però, o se no, li spediamo direttamente in Corea del Nord. Che dici? Cioè, come vogliono le strade pulite? Vogliono le persone ordinate? Non in Svizzera posso andare per ci arrivano quelle della Svizzera. Però voglio dire, volete un certo tipo di, come dire, contesto, vi prendete un bel treno, andate in Corea del Nord e Kim vi aspetta. Perché proprio il treno? Perché si sposta sempre in treno, che... Kim, effettivamente. Sai perché per il treno? Perché ci mette tempo, hai il tempo piano, di soffrire piano, e dici, piano, cazzo, piano. Sto veramente arrivando lì. E poi arrivi lì al confine e dici: salve, sono un italiano, sono un po' nostalgico di un certo periodo che non ho voglia di dire in questa trasmissione. Certo. E quindi Kim, accoglimi. E Kim sarà felicissimo e tu sarai contentissimo di sapere cosa mangiare, quando andare a dormire, quando svegliarti, cosa leggere e cosa pensare. Tenere. Esatto, esatto. Comunque a me è successo talvolta di dire: ma ai miei tempi, io sono classe 1982, ho 38 anni, mi sono accorto che spesso avviene con l'ambito musicale. musicale, perché stavo andando in macchina con il mio vecchio coinquilino Riccardo, facile, come suo mio nome, e a un certo punto passa Hang Up di Madonna, ok? Tango, bellissima, so slowly, e dico pezzone dance floor, e dico ah bella, hai capito la vecchietta qua come si alambicca a riprendere dei giri già conosciuti. E il mio amico, mio collega, ha detto, cosa vuol dire alambicca? Perché alambicca? No, c'è riferimento appunto a come era Gimmi Gimmi Gimmi, esatto, okay. Lui è classe 1995, quindi molto più giovane di me, sì. E mi fa, in che senso? E io, ma come, non sai il giro degli ABBA, Gimmi Gimmi Gimmi? E stavo per dire, ma ai miei tempi facevano musica bella. A parte che tu non avevi gli ABBA in generazione, no, però li ho sentiti, esatto. Però mi sono fermato per tre motivi. Intanto, mi sono accorto che stavo diventando vecchio nel dire questa frase, sì. Due, che stavo per dire, ma ai miei tempi, che odio. E terzo, mi sono frenato nel dare un giudizio al mio amico, pensando che alla fine quello che era vecchio era anche migliore, quindi dare un giudizio di merito. Questo infatti è tutto il fulcro della puntata. Certo, ragazzi, sei meritevole. Brevemente, anch'io a un certo punto qualche anno fa mi sono accorto che stavo ascoltando sempre la stessa musica di quando avevo 15, 16, 17, 18, 20 anni, sì. Ok, ne avevo 30, 32 non mi ricordo, e ho detto, ma caspita, ma perché ascolto sempre gli stessi dischi? Allora sono andato su, non so, Pitchfork, che è una testata online di musica, e ho detto, quali sono i migliori album di quest'anno? E ovviamente c'era un elenco di dischi che io non sapevo cosa fossero, e con, come dire, come un amanuense, come un monaco, mi sei messo lì ad ascoltarli tutti. E li ho ascoltati, non tutti, però gran parte, ho detto, caspita, ma adesso voglio riaggiornarmi. Hai fatto anche in miniatura tutti gli album, essendo un amanuense, tutte le ricostruzioni. Chiaro. Conoscendomi potevo finire anche certo. Così. Esatto. Allora, abbiamo chiesto un consiglio, un punto di vista al nostro semiotico di fiducia, Daniele Dodaro, fondatore di Squadrati, che ci ha detto cosa ne pensa di questo logo comune, ma ai miei tempi. Una delle cose che mi fa più riflettere, ma anche incazzare, della frase ai miei tempi è che chi la dice si riferisce sempre o quasi sempre alla sua adolescenza, come se fosse un'età dell'oro in cui la musica era più bella, i valori più puri e si potevano mangiare anche le fragole. Ma scusate, visto che questa frase viene detta da settantenni, sessantenni, cinquantenni, ma credetemi, anche da ventenni e trentenni, e quindi tutti si riferiscono a periodi storici diversi, non è che forse è una gran fesseria e non è altro che il nostro ricordo edulcorato della nostra adolescenza? Questo potrebbe essere la chiave di lettura, tra l'altro uno dei motivi per cui io non dico ai miei tempi, perché ho avuto un'adolescenza che non mi è piaciuta, quindi non ho un'età dell'oro. È quello, comunque c'è anche all'interno della musica, c'è anche un periodo pre e dopo negli artisti, è il primo Vasco. È vero, cioè, pure lì, anche nella vita singola. Esatto. I primi dischi erano meno commerciali. Questo, esatto. Questo è un luogo comune che faremo prima o poi. Torna in questa puntata la parola adolescenza. Non so se ve ne siete resi conto. Probabilmente sì. Perché nel periodo dell'adolescenza, forse ci sono anche degli studi psicologici che lo confermano, ma io di certo forse non sono qui. Anche l'ospite che avremo fra poco. Probabilmente sì. Nel periodo dell'adolescenza, come dire, c'è una reattività umana, no? Della nostra anima, della nostra sensibilità molto più alta. Quindi quello che si fissa nel nostro cervello in quegli anni rimane per sempre. La sfida è per tutti voi ascoltatori di qualsiasi generazione, provate a tornare adolescenti ogni giorno, cioè proviamo ogni giorno a scoprire cose nuove. Come Picasso, ci ho messo una vita a tornare bambino, a dipingere come un bambino. Tornato perché era stato già un nostro ospite, sì, uno dei sociologi più amati di Radio 24, ma anche da noi, ovvero il professor Domenico De Masi. Buonasera professore. Buonasera a voi. Bentornato. Allora, abbiamo deciso di darci del tu, perché già la seconda volta che ti invitiamo, ti chiamiamo da anni ormai, io e Riccardo, se l'avremo a Radio 24 da un sacco di tempo, quindi lo chiamiamo, lo ingaggiamo. Quindi, caro Domenico... Chiamato anche Mimmo dagli amici, posso dirlo. Mimmo allora De Masi, chiamiamolo, cioè, possiamo Mimmo. Chiamarti non lo so. Mimmo? No, forse ci stiamo allargando un po' troppo. Che... Allora, Domenico, cosa ne pensi di questo luogo comune? Ma ai miei tempi. Cosa ti suscita questa cosa? È l'impotenza. Come l'impotenza? No, chi dice ai miei tempi è uno che si sente impotente rispetto ai tempi attuali. Chi non si piglia le cose belle del proprio tempo si piglia solo le cose brutte. Lo diceva già Voltaire. Quindi rimpiangere i tempi del passato è un senso di impotenza. Ma bisogna tener conto che questo in cui noi viviamo non è sicuramente il migliore dei mondi immaginabili, il migliore dei mondi possibili, ma è certamente il migliore dei mondi esistiti fino ad oggi. Quindi ci è andata bene a vivere oggi. Qua stai citando Leibniz, se non sbaglio, giusto? Se vado a memoria. Sto citando me stesso. Ah, scusa. In realtà, scusatemi, no, era Churchill, diceva questa cosa della democrazia, credo. Sì, sì, è una dei sistemi perfetti. È l'altra cosa. Senti, ma Domenico, Mimmo, tu a te capita di dire ai miei tempi? Tu sei un professore. No, non mi capita mai. Mai? Cioè, tipo tutti quando tempi, vedi... Tutti i tempi precedenti li considero peggiori di quello attuale. Ah. Cioè, i miei 40 anni erano peggio dei miei 50. Tu. I miei 50 erano peggio dei miei 60, ora ne ho 80, quindi sono in cima. Tu sei una generazione, sei un baby boomer, eh? Ah, va a capire che cosa sono. Vabbè, di che anno sei, scusami, Domenico? Io sono del 38. Vabbè, allora no. 1938. È un pre 82 anni. È un pre baby boomer, è un pre baby boomer, perché sì. Tanto per dare un'indicazione ai nostri ascoltatori, perché ogni volta un pre bellico. Un pre bellico, esatto. Però c'è dal 26 al 45, secondo l'Istat, è la generazione della ricostruzione, dal 45 al 65 sono i baby boomer cosiddetti, come i miei genitori. Quindi io sono un ricostruttore. Un ricostruttore. L'opposto di Matteo Salvini, il distruttore. Ma cosa? No, l'altro Matteo. Ah, Matteo Renzi, dici? Certo, che era rottamatore. Ah, giusto. Io sono stato costruttore. Sì. Esatto, dal 66 all'80 è la generazione X. È bello il nostro modo di costruire, perché dopo la guerra nessuno chiese sussidi, mentre adesso dopo la pandemia tutti gli imprenditori chiedono sussidi. Sono diventati improvvisamente comunisti. Ma come? Vogliono tutto dallo Stato. Ha detto gli imprenditori? Ha detto gli imprenditori. Sì, ma imprenditori. Scusami, però. Imprenditori, quindi sì. Alla fine, Domenico, sono arrivati i comunisti, no? Gli hanno acclamati per 30-40 certo. Anni. Ah, ci sono i comunisti. Ci sono comunisti. Alla fine, gli imprenditori che votavano quello che diceva che arrivano i comunisti sono diventati comunisti. Quindi, insomma, è così il nostro paese. Gli imprenditori che dicevano fuori lo Stato dall'economia dicono lo Stato ci deve dare soldi per fare economia. Comunque, poi c'è la generazione, finisco. Le generazioni, i millennial dall'81 al 95, la generazione Y, e poi l'ultima generazione, quella che stiamo vivendo adesso, la generazione delle reti, ovvero la generazione Z. Senti, ma Domenico, secondo te c'è un po' troppo? La generazione Z dà per scontato che non ce ne sia più una successiva. Nominiamo quella nuova, come la chiamiamo quella che arriverà? Forse c'è già un nome, sì. Però non ho studiato. Io, allora, sul time. Di ritorno. Un alfa di ritorno. Un alfa. Un alfa. Ricomincia il giro da là. Ah, ok. Sì. Perché il Times, per esempio, titolava generazione P, ovvero generazione pandemia legata anche al precariato, al prestito, non al possesso e così via. Secondo te è possibile? È brutto. Generazione P è bruttissimo. È brutto. No, inventiamocene una noi adesso, molto più bella. La generazione della ciambella, non so perché. Perché c'è un po' di assenza e un po' di presenza. Beh, però. Del babà, visto che filosofo, no, la generazione dello smart working. Dello smart working, dici? Non lo so. SW, la generazione SW. Smart working, SW. Perfetto. Ma lei, scusi, cioè, tu, scusami, Domenico, fai smart working in questo momento? Noi stiamo facendo smart working in questo momento. Ma soprattutto stai ancora lavorando? Perché, ma Domenico. Molto interessante, perché chi fa smart working non se ne accorge. Esatto, è uno sfruttamento, è uno sfruttamento inconsapevole, cioè uno non si rende conto. No, è una liberazione inconsapevole. Una liberazione. Sei favorevole quindi alla formula smart working? Totalmente, ho scritto la prima cosa negli anni 90. È vero, sullo smart working. Però giustamente ho sempre battuto per lo smart working. Come diceva Alessandro, ma Domenico, ma stai ancora lavorando? Ma basta, vai in ferie. Ma no, ragazzi, fatelo lavorare, perché allora il tema deve pagare. Noi vedremo mai la pensione, Domenico? No, io non ho mai lavorato nella vita. Ma come, Domenico? Non dirci così. Noi ci facciamo un bucio enorme. Vabbè, chi lavora di contenuti, no, di studio. Mi tocca. Io sono napoletano, quindi non sono Ma come? Ma Domenico, si arrabbierebbero i tuoi concittadini se dici così? È un luogo comune, è sbagliato, è uno stereotipo, non si dice. Non si arrabbierebbero perché sono saggi. Sanno che anche chi lavora non deve dirlo, non deve fare come il milanese. che la sera è sempre affranto, che si fa due ore in più di straordinario non retribuito, facendosi sfruttare ancora di più. Tutti i manager milanesi maschi in ufficio restano fino a 2-3 ore dopo. Anche donne per cercare di stare. Le donne molto meno, perché devono andare a casa ad acquisire. Ma vabbè, non lo so. Bimbo, siamo rimasti in un sistema un po' ottocentesco, anche mi sembra, Anche qua ci sono molte donne manager che guadagnano decidono, molto, scelgono di, per fortuna, di lavorare tanto, parecchio. Senti, ma Beppe, è curioso di chiederti una cosa, perché riguarda un po' tutti noi. Allora, la pensione noi, Domenico, la vediamo o no? Noi dei 35-40 anni. Che cosa? La vedremo mai la pensione? Certo che la vedrete. Quindi... una palla che non si vede. La pensione deve essere calcolata sulla ricchezza che si produce, non sulle persone che lavorano, perché le persone che lavorano sono sempre meno, ma essendo però supportate da una tecnologia sempre maggiore, meno lavoratori produrranno molto di più. Quindi ci saranno molti più soldi per la pensione. Beh, ragazzi, la pensione non va calcolata sui lavoratori che diminuiscono, ma sulla ricchezza che aumenta. Tu dici quindi che siamo in un periodo in cui la ricchezza aumenta, ma se tutti cantano miseria, un mondo bellissimo. Ma come? Spiegaci, dacci degli... Te lo dico io. Tolta la parentesi della pandemia, naturalmente, sì, il mondo produce tra il 3 e il 5% all'anno in più. C'è una ricchezza immensa ogni anno in più. Ma il problema non è la produzione, è la distribuzione. Esatto. Perché l'anno scorso L'85% di tutta questa immensa ricchezza prodotta se la sono beccata 1100 persone. E noi non siamo tra quelle. Il problema non è la produzione di ricchezza, se ne produce tantissima, è che se la pigliano poche persone. 8 persone hanno una ricchezza pari a quella di mezza umanità. Certo. Cioè di 3 miliardi e 600 mila. Tu immagina una bilancia, in un piatto ci sono 8 persone, in un'altra ci sono 3 miliardi e 600 mila persone. Questo è il vero problema, non la ricchezza, la distribuzione. Senti, Domenico, tu sei anche un professore, no? Sociologia del lavoro alla Sapienza, e hai a che fare con tanti studenti, hai visto passare davanti a te tante generazioni. Cosa pensi dei giovani? Una domanda un po' banale, stupida, però... Questi sono i migliori in assoluto. Che sono i migliori, gli ultimi, sì, che stai vedendo? Quelli che hanno... passate. Io ho cominciato a insegnare nel 61, quindi mi sono passati, diciamo, ho avuto non meno di 8-9 mila studenti nella mia vita. E quindi le varie tappe le ho viste tutte. Questi sono in assoluto i migliori. Ecco, a proposito infatti di studenti, di giovani, abbiamo chiesto al nostro pubblico, perché noi abbiamo un canale Telegram, che è una chat allargata per tutti i nostri ascoltatori, che invitiamo adesso, se ci state ascoltando, di aggiungerci, cioè di aggiungervi voi su Telegram con offtopic_24. È un luogo in cui si può chiacchierare, potete proporci dei temi, dei luoghi una comuni. Una redazione allargata. Esattamente. Ci sono anche persone giovani. Abbiamo un ragazzino di 14 anni che ci ha mandato questo WhatsApp sul tema. Si chiama Pietro. Quando sento questo luogo comune mi vengono in mente i boomer, che glorificano solo il passato e mortificano il presente che loro stessi hanno creato. Ogni giorno mi accorgo che più o meno fra una ventina e una trentina di anni mi trasformerò anche io in un boomer, e questo mi diverte parecchio. È giusto, perché il tempo passa, no? E poi ce n'è arrivato un altro da Guido. No, Giovanni. Ha sempre un ragazzo under 18. Sì, sì, molto giovane. Come ti senti quando ti dicono ai miei tempi? Allora, innanzitutto mi sembra una cosa giusta detto da loro, solo che non vuol dire che noi ragazzi del 2000, in un mondo dove ci sono schermi ovunque, non abbiamo altri interessi oltre il telefonino, il computer e cose di questo genere. Tipo, io durante il tempo libero cerco di trovare degli spazi oltre lo studio per disegnare e fare cose del genere, però molto artistiche, invece che stare davanti al telefono. E se proprio devo guardare il telefono, guardo Pinterest per prendere delle immagini di riferimento per dei miei disegni. Che poi ci sono degli anziani che si imbecilliscono davanti alla televisione 24 ore su 24, quando poi fanno anche paragoni dicendo Ma poi ai nostri tempi, chissà che cosa hanno fatto, che poi magari non hanno fatto ma neanche un granché. Sì, esatto, erano dei criminali. Comunque, nella nostra comunità di oggi si vive abbastanza bene. Hai capito? Quindi Domenico, che ha 80 anni, sì, e Giovanni, che ne ha 14, 15, 16, forse più piccolo, forse più piccolo, 12, sì, la pensano allo stesso modo. Siamo noi che siamo dei vecchi rimbambiti di 30 anni che ci lamentiamo e non c'è lavoro e non ci pagano abbastanza. Che palle, è che vero, siamo noiosi, siamo, basta. Mimmo. O no? Ma io credo che a 40 anni si è schiacciati, diciamo, da una gioventù che è appena finita e una maturità che sta cominciando. Inoltre i quarantenni di oggi sono naturalmente in una situazione completamente diversa da quella dei loro padri quando avevano 40 anni, perché a 40 anni un tempo si era proprio nella piena maturità. Oggi invece gli studi si prolungano, il lavoro ritarda e così di seguito, per cui a 40 anni quasi quasi si è considerati dei ragazzi. Senti, naturalmente non si sa come comportarsi, se da ragazzi o da adulti, ed è questo che schiaccia i quarantenni, naturalmente. Giusto. Mimmo, ma i tuoi genitori ti hanno mai detto ma i miei tempi, o comunque eri conflittuale rispetto ai tuoi genitori, tua mamma e tuo papà? Ma purtroppo mio padre è morto quando io avevo 8 anni, per cui diciamo non ricordo quasi nulla. Non purtroppo c'è stato tempo, certo. Mia mamma è stata sempre felicissima dei tempi nuovi. È stata felicissima quando ha avuto il primo telefono, felicissima la prima radio, felicissima la prima televisione. Cioè ha vissuto il progresso come lo vivo io, cioè come un grandissimo privilegio. Vi faccio un esempio semplicissimo. Io ho studiato in collegio per 8 anni, perché appunto ero orfano di medica e quindi avevo una borsa di studio. In collegio la mattina ci svegliavano alle 7 e bisognava lavarsi, l'acqua era gelida. Quindi io per 8 anni mi sono lavato in acqua gelida. Cosa che ogni noi, volta che ora apro il rubinetto e esce dell'acqua calda, per me è una gioia. È un bene di lusso, è un lusso praticamente. Sì. Naturalmente nessuno di voi che avete avuto la fortuna di nascere con acqua calda, corrente, nessuno di voi prova questa gioia. Siamo nati con la camicia. Siamo nati con la camicia, è vero. Sì, con la camicia calda e stirata. Sì. Beh, direi comunque, ragazzi, che la parola magica di questa puntata è il presente. Cioè dobbiamo un attimo tutti concentrarci molto molto molto di più sulla la giornata di oggi, sul secondo che stiamo vivendo, sull'ora che stiamo passando, perché... Ma direi anche sul futuro, noi dobbiamo essere molto centrati sul presente e sul futuro, perché la nostra società, quella attuale, è basata sulla progettazione di futuro. Ecco. Se io non progetto il mio futuro, qualche altro lo progetta per me. Ecco, quindi è bene che lo progetti io. Domenico, bravo. A proposito di progettazione di futuro e di scenari, e di scenari, dicono che ci stanno. Il nostro governo ha una grandissima occasione, no? Che avrà a disposizione questi 200 miliardi che arriverebbero. Certo. Ok, secondo te la sapremo cogliere questa opportunità, o come al solito la faremo un po' all'italiana? Ma se la fa il governo, la sapremo cogliere. Se lo facessero. Se si seguissero i consigli dei giornalisti sarebbe un disastro. Perché dici questo? Per esempio, ieri sera ascoltavo una trasmissione televisiva, c'erano 3-4 giornalisti e ognuno a proporre, ma più che proporre, consigliare. Consigliamo a Conte di fare così, consigliamo tutte cose di una idiozia totale. Quindi come se Conte avesse bisogno, che so, di Beppe Severini per sapere cosa fare. Però Domenico sei di parte, scusami, mi stai difendendo il governo, dimmi qualcosa di critico, sennò questa puntata non è. Non c'è par condicio. Qualcosa di critico. Non c'è dubbio che durante questa pandemia il governo si è comportato meglio di tutti, tant'è vero che è imitato in tutto il mondo. Quindi se ho dato prova di essere bravo a fare questo, perché non dovrei dargli fiducia per il futuro? E poi vorresti abolire i giornalisti in televisione, dillo chiaramente. Dai, diccelo. No, vorrei che i giornalisti fossero meno approssimativi e meno spocchiosi. Il giornalista si sente in diritto di dare consigli a destra e a manca, mentre magari lui è un fallito. Ma come? Scusa, ma no! Ma ai tuoi tempi i giornalisti quindi erano meglio? Ma no, credo che sia un... Il problema è che il giornalista ogni giorno deve trattare un problema diverso. Quindi non può che essere superficiale, deve riempire nella sua professione la superficialità, non è colpa sua, diciamo. Naturalmente l'intellettuale è un'altra cosa, è uno come me che studia da 40 anni solo il lavoro. È su un altro livello. Noioso, certo. È più noioso, però è più attendibile. Mm. Senti, Mimmo, per chiudere questa chiacchierata su questo luogo comune, è ai miei tempi, tu consigli alle generazioni attuali di disobbedire qualche volta o sempre? Non c'è dubbio, se il mio capo mi dice una cosa sbagliata, io devo disobbedire, come ci ha dimostrato Norimberga, dove furono giustiziati tutti quelli che dicevano che avevano obbedito a Hitler. L'obbedienza non è una virtù. L'obbedienza non è una virtù. Ok, questa quindi è non la porta. Dovremmo mettere nei valori, come dire, del futuro. È una frase non mia, ma di Don Milani, che è stato un grandissimo educatore. Certo. Va bene, allora grazie mille Mimmo De Masi per essere stato con grazie noi a Off Topic e insomma buon futuro a questo punto, visto che siamo lanciati bravissimo, verso il 2000 e chissà cosa. Grazie mille. Ciao, ciao Domenico. Buon futuro con lo smart working. Ecco, perfetto. Grazie. Ciao, ciao, speriamo ciao. Di vederci a Napoli. Speriamo di vederci. Andiamo a Napoli, andiamo a trovare tutti i nostri ospiti e diventiamo più saggi, perché capito? Ci ha detto che il luogo comune dei napoletani è che c'è sono saggi. C'è saggezza. È vero. Beh, i grandi napoletani, Totò e insomma molti napoletani sono molto saggi e ci hanno lasciato molto. Però volevo dirti che tu lo fai soltanto andare a trovare i nostri ospiti. Perché? Per scroccare la cena. Il mio progetto, no, il mio progetto è girare l'Italia dei nostri ospiti. Voi non volete mai venire, volete stare a casa. Va bene ragazzi, allora come dire, recapiti social. Siamo su Instagram, yes. Off Topic 24. Seguiteci, commentate, scriveteci in privato, che perché vi rispondiamo se avete domande, affermazioni, contestazioni. Poi siamo, come ho detto prima, sulla nostra chat di Telegram, per chi avesse Telegram ci trovate off topic underscore 24, venite e parliamo dei temi delle prossime puntate. Poi siamo anche su Twitch, in questo momento siamo live su Twitch, sì, mentre stiamo registrando questa puntata, off topic 24, esatto, lo siamo il mercoledì mattina e il venerdì mattina ci potete seguire durante il lavoro di redazione, così almeno ci vedete ed è una casa di vetro la nostra. E ricordatevi che scusa, cosa? Che purtroppo ai nostri tempi non ci sono più i dinosauri. L'ho detto con una slang di quei microbi di batteri che esistevano una volta. Fantastico. Del Giurassico. Ciao. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.